GR Europa. Buon pomeriggio da Gigi Donelli, avete dunque sentito, giorno di vertice e noi allora ci colleghiamo subito con Bruxelles. Sergio Nava, il nostro inviato, molti temi per quello che è già stato definito un vertice di transito, in particolare questa mattina Rajoy che arrivando a Bruxelles ha detto questo lo vedo come un vertice intermedio tra quello appunto attuale e quello molto importante di giugno, ma dovrà servire questo a riflettere, a fare il ripasso generale della situazione generale appunto dell'economia in Europa. Allora Sergio, che aria tira Bruxelles oggi? Buon pomeriggio innanzitutto. Beh, l'aria è, come dire, abbastanza paradossale, se vogliamo, come hai anticipato tu, è un vertice abbastanza intermedio questo, nel senso che non sono attese conclusioni dirompenti o comunque che non ricordano i vertici di emergenza che hanno costellato tutto il 2011 e il 2012, però si rischia effettivamente una vera e propria battaglia su quale strada seguire ora. Il voto italiano ha fatto riflettere molti a Bruxelles, il 25% a un partito che comunque ha contestato apertamente l'austerity imposta all'Europa ha fatto riflettere, e in questo senso va letta anche la dichiarazione di Mario Monti circa un'ora e mezzo fa, quando uscendo per andare al prevertice dei popolari europei ha detto porterò il caso Italia perché il caso Italia deve fare riflettere. Tra l'altro questo è un po' è anche l'ultimo vertice da premier per Mario Monti e non è escluso che si tolga anche qualche sassolino dalla scarpa. Alla fine la questione è la divisione, la frattura che c'è tra i paesi più rigoristi e i paesi che, come l'Italia, la Francia e la Spagna, stanno cominciando a dire no a un'austerità tout court senza spinte per la crescita. Ecco Sergio, a questo proposito, Monti è stato sconfitto di fatto dalle urne, non c'è la sensazione a Bruxelles che sia l'inizio di un effetto, diciamo, domino all'interno proprio dell'Unione Europea, di cui, come hai accennato, insomma, Mario Monti è stato un vero e proprio campione per Bruxelles, molto più di quanto non si sia dimostrato all'interno del proprio paese? Al momento non sono in programma elezioni importanti nei paesi più grossi, a parte la Germania, ma la Germania fa un po' scuola a sé, potremmo dire, e vive anche una situazione economica diversa. Di certo la paura che quello che sta accadendo, gli effetti che l'austerità sta avendo in Europa possa trasformarsi in qualcosa di più che semplice protesta c'è. E tra l'altro anche c'è stata una manifestazione con circa 10.000 persone qui vicino di sindacati europei che sono venuti a dire basta all'austerità. Il mantra che ha dominato gli ultimi due anni, rimettere i conti a posto, fare i compiti a casa, riportare i bilanci in pareggio, rimane, però c'è anche la consapevolezza che questo in alcuni paesi sta scatenando dei problemi enormi che potrebbero avere delle ripercussioni politiche, ma non solo. Il fatto stesso che la Francia, quindi non un paese diciamo minore, non riuscirà quest'anno a chiudere con il deficit diciamo all'interno dei parametri di Maastricht, ma sarà il 3,7%, indica chiaramente che non è più ormai il tempo dell'austerità fine a se stessa, ma occorre cominciare un po' come ha fatto anche se vogliamo l'amministrazione americana a investire per creare occupazione e soprattutto creare crescita. Grazie a Sergio Nava, la parola d'ordine dunque non da oggi ma oggi più che mai è lavoro. GR Europa finisce qui, ma naturalmente gli aggiornamenti continueranno nel corso dei giornali radio. Con questo è tutto, noi come sempre torniamo domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.